Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro. Come curare un gay. Quella che segue è la storia vera di un ragazzo gay di alta classe sociale, chiamiamolo Francesco. La racconto in prima persona e cerco di riportarla nel modo più fedele possibile a come mi è stata riferita e a come ho potuto quasi viverla in diretta leggendo i diari di Francesco e di Mirko. Mi chiamo Francesco e ho 35 anni. Per quanto credo che sia inutile raccontare la propria vita agli altri, perché ognuno di vita vive la sua e basta, provo comunque a raccontare qui la mia, perché me l'ha chiesto un amico etero, uno al quale io voglio veramente bene, e se me lo chiede, una ragione seria ci deve pure essere. Io, come tutti i ragazzini gay di questo mondo, da adolescente ho vissuto di fantasia e di masturbazione. Questa era praticamente tutta la mia vita fino ai 16-17 anni. Che ero gay lo sapevo benissimo. Poi ho avuto la maledetta idea di dirlo ai miei. La sciocchezza del coming out. Ragazzi, se vi viene in mente, lasciate perdere. Se non volete rischiare di finire come sono finito io. I miei sono una famiglia ricca. Mio fratello è più grande di me ed è un imprenditore affermato, è sposato, ha figli, tutto regolare. Mio padre e mia madre sono tutto sommato delle brave persone e a loro modo hanno cercato sempre di aiutarmi, anche se questa è una parola che proprio non sopporto, però l'hanno fatto a modo loro e questo è stato il disastro. Quelli che non hanno quattrini da buttare, se vogliono dare una mano ai figli, cercano di parlarci, i miei invece credono nella professionalità e nella specializzazione, che nel loro ambiente sono le parole di moda oggi. E io di tutto questo ne ho dovuto fare le spese. Il giorno che ho parlato con loro in modo esplicito ho avuto la netta impressione che non se lo aspettassero, ma siccome sono persone di classe non hanno fatto una piega, non mi hanno abbracciato, non mi hanno detto che mi volevano bene, mi hanno detto invece che mi avrebbero aiutato. La parola mi suonava sinistra già allora. Ma aiutato a fare che cosa? Io all'inizio pensavo per darmi un sostegno ad essere me stesso, invece non è stato così. Mi hanno fissato un appuntamento con uno psicologo specializzato in psicologia dell'adolescenza, una, dicevano loro, persona bravissima che mi avrebbe certamente aiutato. Francamente a me la cosa non piaceva granché, ma almeno pensavo che con uno psicologo si potesse parlare in modo più libero. Naturalmente al primo appuntamento dovevo andare da solo, ma voi ve lo immaginate un ragazzo di 17 anni che deve andare al colloquio con lo psicologo perché deve essere aiutato? Insomma, arrivo all'indirizzo che mi avevano dato, c'è scritto sulla porta dottoressa, non dottor, tal dei tali, e la cosa a me non andava assolutamente bene. Io dovevo andare a raccontare i cavoli miei a una donna, no? Ma loro direbbero, ma è un medico? Lo so, ma a me non sta bene lo stesso. Andare ci sono andato. Avrò avuto più o meno 35 anni e mi stava ancora meno bene. Mi ha fatto sedere davanti alla sua scrivania e mi ha detto, la tua mamma mi ha detto di te. La mia mamma? Ma di tua madre? Io non c'ho mica 2 anni. Poi ci girava intorno e non veniva mai al punto perché voleva che fossi io a parlare. Io mi guardavo intorno, diplomi e diplomini appesi da tutte le parti, come se i pezzi di carta facessero una persona intelligente. Poi mi ha detto che mi dovevo sentire libero e alla pari con lei, e che dovevo dire tutto quello che mi veniva in mente. Siccome io la lasciavo parlare e non dicevo nulla, alla fine ha perso la pazienza e ha tirato fuori il rospo, anche se in modo generico, mi ha detto, senti, qui non ci sente nessuno, io so che tu hai tanti problemi, se vuoi ne possiamo parlare liberamente. Qui, tanto noi siamo alla pari. E io gliel'ho detta tutta come la sentivo. Le ho dato direttamente del tuo e le ho detto guardandole fisso negli occhi, dai, di la verità, io so che pure tu hai tanti problemi, se vuoi ne possiamo parlare. Ha fatto una faccia di disappunto soprattutto ha capito che aveva perso la gallina dalle uova d'oro, perché per lei tenermi in terapia significava fare un bel po' di quattrini. Poi mi ha licenziato e sono tornato a casa. Nel frattempo la dottoressa aveva telefonato a mia madre. Io non direi mai a mamma, è una cosa troppo affettuosa e non mi viene proprio spontaneo. Mia madre ovviamente era delusa, ma non poteva accusare il colpo, quindi ha recitato al meglio il suo ruolo, alla lettera ha recitato. Poi mi hanno mandato da un altro, questa volta era maschio, ma era un attrezzo. Ma io dico, sono gay, mandami da uno psicologo gay che mi aiuti a essere gay se proprio qualcuno mi deve aiutare. Ma non da uno o da una che mi deve dire che non è vero che sono gay e che queste cose passano, che sono momenti adolescenziali. Ma io allora avevo quasi 18 anni. Ma come cavolo è possibile che questi non ci arrivino? Ma in fondo loro hanno i loro interessi, allora si spiega proprio tutto. Vabbè, insomma. Uno dopo l'altro li ho mandati tutti a quel paese. I miei hanno speso, cioè buttato letteralmente un sacco di soldi, poi sono arrivati alla conclusione che tanto ero irriducibile e che non volevo farmi aiutare. Ma in tutto questo casino io pensavo a sfottere gli psicologi e a cose del genere e quindi non pensavo a studiare. Peggio di peggio, alla fine dell'anno mi bocciano. Una cosa tragica. Sembrava che fosse morto qualcuno, mia madre non sapeva se si doveva vergognare di più per il fatto che ero gay o perché ero stato bocciato. Un figlio gay che deve ripetere l'anno, una vergogna per tutta la famiglia. Ma siccome secondo loro le cose si possono sempre rimediare, mi hanno mandato in una scuola privata, cosiddetta seria, dove io avrei potuto recuperare certamente. Era una scuola di preti, è una scuola anche importante. Quando ci sono entrato, mi sono messo paura, sembrava un college inglese, tutto perfetto, tutti preti purtroppo, e almeno ce ne fosse stato qualcuno passabile, e naturalmente scuola tutta maschile. Mi mandano in una scuola tutta maschile. Tanto loro facevano finta di non avere capito che ero gay. Insomma, è lì che ho conosciuto Mirko, un ragazzo che mi è piaciuto subito e me ne sono innamorato. In sostanza è stata la prima volta che uno mi piaceva veramente, mi piaceva in tutti i sensi. Gli ho proprio fatto la dichiarazione d'amore e gli ho mandato un bel biglietto con tanti cuoricini disegnati e gli ho detto chiaro chiaro che mi ero innamorato di lui e lui mi ha risposto in modo così affettuoso che ho pensato che fosse gay. Però mi ha detto che non era così. E perché io potessi capire fino in fondo il suo modo di ragionare, mi ha fatto leggere il suo diario privatissimo in cui parlava di tutto, anche di sesso e di ragazze, in modo molto esplicito. E c'è stata una cosa che mi ha colpito moltissimo. Lui viveva con quelle ragazze un rapporto che era proprio identico a quello che io avrei voluto vivere con lui. Siccome sembrava che avermi fatto leggere il suo diario privatissimo fosse un atto di totale fiducia nei miei confronti, io mi sono sentito gratificato fino all'incredibile. Di Mirko adesso sapevo che era etero, e di questo non avevo alcun dubbio, ma ero innamorato di lui ancora più di prima. In fondo vedevamo l'amore nello stesso modo. Insomma, siamo diventati inseparabili, ci vedevamo tutti i giorni o quasi, andavamo in vacanza insieme. Ogni tanto lui viveva le sue avventure con le ragazze e io pure con qualche ragazzo, perché poi alla fine è successo. Ma alla fine, quando stavamo insieme, stavamo benissimo. Non si è mai scordato di mandarmi un messaggino, né per il mio onomastico né per il compleanno, e io nemmeno nei suoi confronti. Di ragazzi gay io ne ho cambiati tre, con due di loro ho proprio convissuto. Ormai lavoravo a buon livello e me lo potevo permettere, ma non sono mai riuscito a creare un rapporto stabile con un ragazzo gay. Di due di questi ragazzi sono ancora adesso innamorato in modo profondo. E quando ho visto che con me però loro non stavano bene, allora li ho incoraggiati a andare via. Però siamo rimasti amici, senza sesso, ma con un'amicizia che comunque, diciamolo, non era paragonabile a quella che avevo con Mirko. Ogni tanto c'erano piccole gelosie, piccole meschinità, onestamente anche da parte mia, ma con Mirko non è mai stato così. Quando ci fermavamo a parlare in macchina era una cosa meravigliosa, era veramente un dirsi tutto e trovare dall'altra parte un rispetto e un amore vero. Io e Mirko non ci siamo mai toccati. Lo so che una cosa del genere gli avrebbe creato grossi problemi e quindi ho lasciato perdere. Adesso io mi sono chiesto tante volte, ma è più amore quello con i ragazzi con i quali ho convissuto o quello con Mirko? Ma perché la parola amore deve essere così strettamente congiunta al sesso? Io amo Mirko, nel senso che lo desidero anche e lui mi ama, ma non mi desidera, questo lo so, ma mi ama veramente. Sono strane queste cose. Non sai mai come classificarle, eppure esistono, hanno una forza grandissima, perché gli schemi, oramai l'ho capito, non servono proprio a niente. Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro.